L'ottavo giorno, a cura di Emiliano Enrico. Benvenuti al consueto appuntamento con il riepilogo del sabato delle notizie più importanti della settimana. La puntata di oggi è inscritta, incorniciata in qualche modo tra due feste, il 25 aprile di sabato scorso e il 1 maggio che è andato in scena ieri. E proprio su come queste due feste sono state vissute e poi raccontate nei GR di Radio 24, in qualche modo apriremo e chiuderemo quest'ora insieme, che come sempre corre sul filo dei servizi, delle interviste e dei commenti già trasmessi nei GR di Radio 24. Sabato. È il 25 aprile, la festa della Liberazione. Ci sono tanti riti importanti che si ripetono di anno in anno a Milano, a Roma e in altre città italiane. Ci sono alcuni fatti sgradevoli da segnalare, come il fatto che il sindaco di Roma Alemanno non può partecipare alla cerimonia, alla commemorazione di Porta San Paolo, perché arrivano delle strane minacce di proteste molto violente annunciate dai gruppi di estrema sinistra. E poi c'è soprattutto un fatto nuovo in questo 25 aprile, e cioè la prima ufficiale partecipazione di Berlusconi, presidente del Consiglio. Per giorni poi si discute e si discute ancora sulla scelta di Berlusconi, se sia stata sincera oppure dettata da un calcolo politico e d'immagine. Ma sentiamo il racconto di Elisabetta Fiorito, che per l'occasione si è trasferita a Milano del 25 aprile, del capo del governo e poi di quello dell'opposizione. Silvio Berlusconi esordisce pubblicamente alle manifestazioni del 25 aprile e propone che la festa della Liberazione diventi una festa di libertà. Il premier inizia la giornata all'altare della patria con il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, depone la corona di fiori, poi va donna, di nuovo tra i terremotati, davanti al monumento che ricorda la strage nazifascista di 17 abruzzesi. Per il premier il 25 aprile deve essere di tutti, anche se non bisogna equiparare repubblichini e partigiani. Il compito di tutti è quello di costruire finalmente un sentimento nazionale unitario. Dobbiamo farlo tutti insieme, quale che sia l'appartenenza politica. L'opposizione si riunisce a Milano in piazza Duomo nella tradizionale manifestazione dell'Associazione Nazionale Partigiani. Dopo aver fatto tappa anche lui in Abruzzo, il segretario del Partito Democratico Dario Franceschini risponde al premier. Una cosa è il dovuto rispetto, la pietà per tutti coloro che hanno perso la vita in qualsiasi tipo di guerra, un'altra cosa è equiparare. Questo io chiedo che al Presidente del Consiglio sia coerente con quelle parole e faccia ritirare lunedì la proposta di legge del PDL che prevede l'equiparazione giuridica tra repubblichini e partigiani. La piazza di sinistra non gradisce la presenza del presidente della regione Lombardia, Roberto Formigoni, che va via tra le proteste. Tra gli effetti di questo debutto sulla scena del 25 aprile di Berlusconi c'è il ritiro del disegno di legge che prevedeva dei vitalizi a partigiani e repubblichini, ma per qualcuno era anche una implicita equiparazione tra la Resistenza e la Repubblica di Salò. Il primo firmatario della controversa legge è Lucio Barani, che oggi è deputato socialista del Partito delle Libertà, che però a sua volta ha negato di voler equiparare proprio i partigiani e chi scelse Salò. Lo ha intervistato per Radio 24 Maria Luisa Pezzali. Come ha detto Garibaldi quando cercava di liberare il Trentino Alto Adige rispondendo al re, obbedisco. È un momento di crisi economica e del terremoto dell'Abruzzo, lo scontro mio con questo PD che sta strumentalizzando tutto, il presidente Berlusconi va lasciato governare in tranquillità e quindi aderiamo al ritiro. Il PD si è inferocito perché il Partito Democratico e Franceschini non hanno capito lo spirito di questa legge che riconosceva ai partigiani e agli invalidi di guerra un aumento pensionistico del 20%, poi un articolo solo di 8 c'era l'ordine del tricolore, cioè il riconoscimento di tutti quelli che hanno avuto la cartolina precetto, che sono stati chiamati, obbligati ad andare a fare il servizio militare, gli veniva dato l'ordine del tricolore. Come capita spesso, anche quest'ultima è stata una settimana movimentata, caotica direi, persino di Berlusconi, vissuta sul filo anche di polemiche familiari. Rimane per esempio sempre aperta la querela attorno al referendum elettorale di giugno, persino a Varsavia, dove è in visita, dove è in trasferta Berlusconi, il tema lo insegue, o meglio lo inseguono i giornalisti con le domande sul referendum, finché alla fine Berlusconi dà la sua risposta. Sentiamo dalla Polonia l'inviato Gerardo Pelosi. Prima si schermisce, fa finta di allontanarsi, e a quei giornalisti che lo incalzano e continuano a chiedergli come voterà al referendum elettorale, risponde solo: posso fare come gli altri italiani e dire che ci devo ancora pensare. Poi gli vengono in mente gli occasi della Lega, la bocciatura dell'Election Day e le minacce di Maroni, che anche ieri qui a Varsavia ha minacciato la fiducia sul DDL per i centri immigrati. A quel punto sbotta con un'esternazione che potrebbe compromettere la stessa coalizione. Quel referendum dà il premio di maggioranza al partito più forte. E ti sembra che io possa votare no? Nella domanda c'è la risposta. No? Va bene tutto, ma non si può pensare di essere masochisti, no? Insomma, Berlusconi voterà sì e ci metterà la faccia, con un effetto che non sarà certo ininfluente. A chi gli fa notare che la Lega non sarà certo contenta, Berlusconi allarga le braccia. Ci credo, se io fossi nei loro panni non sarei affatto contento. Ma la spina più insidiosa nel fianco di Berlusconi, almeno in questi giorni, si chiama Veronica, è Veronica Lario, la moglie. Infatti martedì fa delle dichiarazioni che scatenano subito una bufera e forse, anche qui suggerisce qualche nota maliziosa, forse queste parole di Veronica Lario suscitano dei ritocchi anche nelle liste delle europee per il Partito delle Libertà. Sentiamo allora Paolo Piacenza e poi con Elisabetta Fiorito sentiremo proprio come la storia delle candidature finisce mercoledì pomeriggio all'interno del PDL. Le veline candidate alle europee? Qualcuno ha scritto che tutto questo è a sostegno del divertimento dell'imperatore. Condivido quello che emerge dai giornali, è un ciarpame senza pudore, tutto in nome del potere. Parola di Veronica Lario Berlusconi. La dichiarazione rilasciata via mail nella serata di ieri all'agenzia di stampa ANSA dalla moglie del Presidente del Consiglio è di quelle che lasciano il segno e rivela un evidente fastidio. Nessuna condiscendenza per il punto di vista del marito, che dalla Polonia bolla la polemica sulle candidate del PDL come veramente deludente. Veronica Lario non apprezza questo modello di selezione delle candidature. Per fortuna, scrive, è da tempo che c'è un futuro al femminile sia nell'imprenditoria che nella politica. E cita esempi come Margaret Thatcher o Angela Merkel, ma anche per l'Italia Nilde Iotti e Stefania Prestigiacomo. Poi però arriva l'affondo. Quello che emerge oggi, scrive, attraverso il paravento delle curve della bellezza femminile, e che è ancora più grave, è la sfrontatezza e la mancanza di ritegno del potere che offende la credibilità di tutte, e questo va contro le donne in genere. Insomma, aria di gelo. E anche sulla visita del premier alla festa dei 18 anni della studentessa napoletana Noemi Letizia arriva una stilettata. Mi stupisce, scrive Veronica, lui non è mai venuto a nessun 18° dei figli, pur essendo stato invitato. Smentiti gli annunci, annullate le previsioni. Alla fine di velina in senso tecnico ne è rimasta solo una: Barbara Matera, annunciatrice e attrice. È l'unica esponente proveniente dal mondo dello spettacolo nelle liste del Popolo della Libertà per le europee. Altre due new entry sono Lara Comi, bocconiana, già impegnata in Forza Italia in Lombardia, e Licia Ronzulli, fisioterapista del premier Silvio Berlusconi. Il centrodestra attacca, Ignazio La Russa. Neanche una veramente, ma non ci sono mai state. Vi abbiamo dato il curriculum uno per uno dei candidati e delle candidate, delle quali siamo di tutte veramente orgogliosi per la loro formazione professionale, per la loro militanza politica. Tornano invece alcuni vecchi come Gabriele Albertini al nord e Clemente Mastella al sud. Silvio Berlusconi è candidato in tutte le circoscrizioni e La Russa è l'unico ministro presente. Ed è proprio La Russa a definire Davide Sassoli il velino del Partito Democratico. Ma Dario Franceschini risponde sulle candidature in rosa. Un miliardario che viaggia con l'aereo privato da una villa all'altra, cosa sa delle donne italiane? Cosa sa della loro fatica, dei loro sogni? Lui ha in mente un mondo fatto di lustrini, di veline e di denaro, che è una cosa diversa dall'Italia vera. Succede molto altro in questa settimana politica, per esempio il federalismo fiscale diventa legge mercoledì, peraltro con i voti a favore anche dell'Italia dei Valori. Poi giovedì c'è il Consiglio dei Ministri, nel quale viene confermato il 21 giugno come data per il referendum sulla legge elettorale, mentre vengono anche annunciati un nuovo ministro, cioè la Brambilla che andrà al turismo, e poi tre nuovi viceministri. L'ottavo giorno. Domenica. Siamo ancora qui a fare i conti con gli assalti dei pirati nel mare al largo del Corno d'Africa. Al di là poi delle ragioni che stanno a monte di questa nuova pirateria del XXI secolo, al di là dei giudizi che si possono dare sui pirati, cioè chi li condanna senza pietà, chi invece vede un alone romantico attorno a questi gesti, attorno alle motivazioni soprattutto che li spingono a attaccare le navi, rimane comunque questa fredda, cruda cronaca, perché nella sera di sabato un'altra nave italiana, questa volta addirittura da crociera, diventa bersaglio di un assalto. Sentiamo il servizio di Cristina Carpinelli domenica mattina e poi un ulteriore approfondimento firmato da Alessio Maurizi nel GR delle 7 di lunedì. Una nave italiana da crociera è stata attaccata ieri sera attorno alle 21 a 600 miglia dalle coste somale. I pirati erano in tutto 6 a bordo di un'imbarcazione leggera, hanno intimato l'alto e sparato con Kalashnikov. Il comandante ha subito ordinato manovre evasive. Il rollio della nave e il personale di sicurezza che ha risposto al fuoco hanno messo in fuga i pirati. La nave ha proseguito quindi la navigazione a luci spente fino al momento in cui sul ponte di comando si è avuta la certezza di aver seminato gli aggressori. A bordo c'erano 991 passeggeri e 536 membri dell'equipaggio, tra i quali 134 italiani. Negli ultimi tempi gli attacchi al largo delle coste somale sono diventati sempre più frequenti. Venerdì i pirati somali hanno dato un ultimatum di 72 ore per la liberazione dell'equipaggio della Buccaneer. Sulla nave, in mano ai pirati dall'11 aprile scorso, ci sono 16 marinai, 10 dei quali italiani. La notizia è stata diffusa dai familiari di due ostaggi, Vincenzo Montella e Giovanni Vollaro, che ieri hanno potuto telefonare a casa. Sono 31 anni che vado in giro per il mondo, da 15 anni che faccio il comandante, una cosa così non mi era mai capitata, sembrava di essere in guerra, fuoco da tutte le parti, perché qui si sparavano ad Africa. Fuoco da tutte le parti, racconta il comandante Ciro Pinto dopo lo scampato pericolo. È stato lui a pilotare il transatlantico Melody della MSC Crociere con 1500 persone a bordo in acque sicure dopo l'attacco dei pirati. 6 uomini su una piccola barca affiancatasi al Melody a colpi di Kalashnikov. Decisivo poi l'intervento degli uomini della sicurezza, esperti israeliani, che hanno risposto al fuoco mettendo in fuga gli aggressori. È la prima nave da turismo di queste dimensioni presa di mira dai pirati somali, segno di una escalation nelle recenti scorrerie nei mari africani, come spiega Niccolò Carmineo, docente di diritto della navigazione all'Università di Bari. Questa nave con 1500 passeggeri a bordo sicuramente era molto difficile da poter tenere sotto sequestro, però poteva valere moltissimo. Evidentemente, siccome non fanno mai delle mosse avventate e conoscono perfettamente la preda che stanno per abbordare, adesso si sentono pronti anche a tenere una nave così grande. Breve parentesi attorno alla Buccaneer, la nave ancora in mano ai pirati, citata dalla stessa Carpinelli nel suo servizio che abbiamo appena riascoltato. L'ultimatum di 72 ore non ha portato a nulla, è ancora tutto in bilico. Martedì arriva tra l'altro una nuova telefonata dalla nave con l'invito naturalmente degli ostaggi a fare presto, ed è comprensibile la loro apprensione e quella dei familiari. Intanto il problema, lo si è capito, dei pirati e della pirateria è grosso e di non facile soluzione. Una domanda che molti si sono posti in queste settimane: come fanno piccole navi, per quanto guizzanti, per quanto agilissime, ad abbordare e a sequestrare delle petroliere o navi da crociera che sono di ben altra stazza? È una domanda importante, spesso, da quello che almeno abbiamo potuto capire, tutto ruota attorno alle regole d'ingaggio piuttosto farraginose, fortunatamente forse possiamo dirlo farraginose, imposte dall'ONU, e poi dal fatto che non tutte queste navi petroliere o da crociera hanno armi a bordo e personale preparato a sventare eventuali attacchi. Proprio su questo punto sentiamo la scheda curata lunedì da Cristina Balotelli. Dopo l'attacco dei pirati alla nave da crociera Melody della MSC Crociere, abbiamo cercato di capire quali sono gli obblighi di un'impresa che opera nel settore in materia di sicurezza dei passeggeri. Lo abbiamo chiesto a due tra i maggiori competitors in Italia. Roberto Ferrarini è il direttore operazioni marittime di Costa Crociere. Le nostre navi sono sicuramente organizzate, abbiamo personale dedicato dalle 12 alle 15 persone che svolgono esclusivamente compiti di security. Abbiamo una serie di equipaggiamento ed attrezzature, nonché training molto severo per tutto questo personale. Ora non posso entrare in dettaglio anche per motivi di, tra virgolette, confidenzialità, perché abbiamo sistemi molto sofisticati che fanno in modo di rendere le nostre navi molto molto sicure. Voi utilizzate personale straniero? Noi utilizziamo personale italiano, nel senso che la security fa sicuramente capo al comandante in seconda e al comandante. Poi per le mansioni più pratiche utilizziamo personale di nazionalità indiana. Domenico Pellegrino, direttore generale di MSC Crociere. Il tema sicurezza è stato sempre affrontato molto seriamente dalla compagnia sin dall'inizio, e per cui ci siamo sempre avvalsi di strutture estremamente specializzate che supportassero gli equipaggi. Sulla vostra nave c'erano uomini della sicurezza di origine israeliana, ex agenti del Mossad, questo dimostra un approccio serio al problema? Sì, sicuramente molto serio, e ripeto, non è recente ma è storicamente consolidato. Il nostro sistema di security è da sempre tradizionalmente israeliano. Quindi non è una scelta casuale? No, fa parte del nostro standard di procedura, di sicurezza e di prodotto. Secondo noi hanno le conoscenze tecniche, l'approccio tattico e le capacità meglio riconosciute. Questo ha dei costi particolari? Il meglio costa sempre di più, guardi. Mercoledì si verifica un nuovo attacco dei pirati ad una nave italiana, questa volta il bersaglio è la Jolly Smeraldo linea Messina, che però è scampata fortunatamente all'agguato, c'erano 23 membri dell'equipaggio a bordo. La nave si trovava a circa 250 miglia nautiche da Mogadiscio e anche giovedì mattina la Jolly ha subito un ulteriore assalto, addirittura portato con i bazooka. Cristina Balotelli, che segue costantemente la questione pirati per Radio 24, poco dopo la notizia del primo attacco, quello di mercoledì, raggiunge al telefono l'amministratore delegato della compagnia Ignazio Messina di Genova, si chiama Andrea Gais e questa è la sua voce. Nelle vicinanze della nostra nave non c'era in quel momento nessun tipo, diciamo, di nave delle varie marine che sono coinvolte nella zona, quindi il comandante, seguendo quelle che sono le procedure in questi casi, iniziava ad attuare delle manovre evasive, praticamente, diciamo, assumendo e continuando a virare col timone per cercare di creare un'onda che potesse rendere, diciamo, difficoltoso l'avvicinarsi di questa imbarcazione. Ci sono stati degli spari? Ci sono stati alcuni colpi di arma da fuoco, probabilmente a scopo più intimidatorio, e per fortuna non hanno ferito alcun membro dell'equipaggio. Non c'era security a bordo, non c'erano armi, siete una nave da, è una nave è una da nave cargo? È una nave da carico, sì, quindi diciamo quelle che sono gli aspetti organizzativi delle navi da crociera non hanno nulla a che vedere con la nave da carico. Ecco. Lunedì. L'altra sera in una trasmissione televisiva che per l'esattezza era Porta a Porta si faceva notare che l'unica multinazionale italiana è ormai rimasta l'ENI. Vespa peraltro ha subito aggiunto che zitta zitta anche la Fiat forse lo sta per tornare o per diventare. In effetti la casa di Torino ormai tra Chrysler e Opel si sta muovendo su una scala che possiamo definire molto più ampia dei confini italiani. La partita con Opel a tempi molto lunghi e poi si infila in mezzo anche al periglioso percorso della campagna elettorale tedesca. Invece per quel che riguarda la Chrysler, la settimana appena trascorsa è forse la settimana decisiva. Andiamo con ordine, sentiamo allora lunedì cosa succede, perché c'è il primo pronunciamento importante, significativo dei sindacati. Ci racconta tutto Valeria De Rosa. A pochi giorni dalla scadenza imposta dall'amministrazione Obama, il sindacato dice sì, sperando che le banche sottoscrivano l'accordo definitivo entro giovedì. Per ottenere nuovi aiuti di Stato, infatti, gli istituti di credito devono acconsentire alla ristrutturazione del debito di Chrysler. Fino alla firma resta comunque in piedi l'ipotesi di bancarotta pilotata alla quale starebbe lavorando il tesoro statunitense e che, pur entrando subito in vigore, non dovrebbe ostacolare l'alleanza con la Fiat. Permetterebbe alla sorella minore di Detroit di liberarsi di alcune voci di bilancio in passivo e a Lingotto di scegliere le parti più redditizie. Sul fronte Opel, Fiat si sarebbe impegnata a non chiudere alcun impianto tedesco nel caso di un possibile acquisto della controllata della General Motors, il che però non vuol dire garantire livelli occupazionali. L'ingresso di Fiat non è ben visto dai sindacati tedeschi, mentre Berlino cerca a fatica di mantenere l'equidistanza dalle offerte. Tutto questo sul fronte internazionale. Dentro i confini, invece, Fiat ha annunciato nuova cassa integrazione per Mirafiori, 2 settimane per 2.600 lavoratori delle linee di produzione della Multipla e della Mito. Quella di Fiat e Chrysler è senza dubbio una corsa contro il tempo, anche perché la casa di Detroit a tempo, scusate il gioco di parole, fino al 30 aprile, cioè fino a giovedì scorso, per chiudere l'accordo, altrimenti c'è il baratro, c'è il fallimento dietro l'angolo. Così ha voluto Obama e così deve fare Chrysler. Lunedì abbiamo sentito, è arrivato il via libera dei sindacati. Martedì c'è un nuovo capitolo importante, questa volta riguarda le banche. Sentiamo il servizio su questo punto delicatissimo di Andrea Malan. Ancora un piccolo passo avanti per l'intesa Fiat Chrysler, che resta però ancora in bilico alla vigilia della scadenza dell'ultimatum di Obama. Il Dipartimento del Tesoro ha raggiunto un accordo di massima con i principali creditori della casa automobilistica americana, che hanno accettato di rinunciare a 6,9 miliardi di dollari di crediti in cambio di 2 miliardi in contanti. Non avranno quindi alcuna partecipazione nella società. L'intesa segue quelle con i sindacati canadesi di Chrysler e poi con quelli americani, i cui fondi pensione e sanitari dovrebbero avere il 55% della nuova azienda. L'accordo con le banche rimuove l'ostacolo più grosso sulla strada dell'alleanza con Fiat, deve però ancora essere approvato da tutti i creditori. Non è ancora esclusa quindi l'ipotesi che il governo americano costringa la Chrysler al Chapter 11, l'amministrazione controllata. Questa eventualità non impedirebbe l'ingresso di Fiat, ma lo allontanerebbe verosimilmente nel tempo. La risposta arriverà entro domani sera. Nel servizio che abbiamo appena risentito di Andrea Malan si preannunciava il fatto che la partita si sarebbe chiusa entro la mezzanotte di giovedì, e allora sentiamo come va a finire questa complicata sfida a scacchi Chrysler-Fiat. Today I am pleased to announce that Chrysler and Fiat have formed a partnership that has a strong chance of success. Avevo dato a Chrysler e Fiat 30 giorni per trovare un accordo. Ebbene, oggi sono lieto di annunciare che le due case automobilistiche hanno raggiunto un'intesa, una grande possibilità di successo. La firma dunque c'è ed è lo stesso presidente Obama a raccontarla, partendo dai tanti posti di lavoro salvati e arrivando a dire che Chrysler non solo è destinata a sopravvivere, ma anche a prosperare. Sono stati fatti i passi necessari per ridare a Chrysler una nuova vita, aggiunge. Fiat è l'unica possibilità di salvezza. Durante la bancarotta il governo americano sosterrà la più piccola delle case di Detroit con finanziamenti per circa 3 miliardi di dollari. Una bancarotta veloce, assicura Obama, 30-60 giorni al massimo, ma Fiat non avrà la maggioranza fino a quando non sarà restituito l'intero prestito accordato dal governo alla casa automobilistica americana. L'intesa non dispiace anche ai sindacati italiani. Il rischio, però, avvertono, è che il lingotto sposti la sua attenzione, il suo tempo e le risorse verso gli Stati Uniti. Sempre per restare in terra americana è giusto ricordare che mercoledì Obama ha festeggiato i primi 100 giorni alla Casa Bianca, peraltro nelle stesse ore in cui sono arrivati i dati catastrofici sul PIL americano. Nel primo trimestre del 2009 il calo è stato del 6,1% ed era dal 1975 che non avveniva una flessione così pesante per 9 mesi di fila. L'ottavo giorno. Martedì. Il 6 maggio, cioè mercoledì, quindi tra pochissimi giorni, ci sarà il primo triste anniversario, il primo mese dal terremoto dell'Aquila. E nel frattempo, lentamente ma inesorabilmente, si stanno abbassando le luci delle telecamere e i taccuini dei giornalisti cominciano a scrivere altrove dalle tristi situazioni, dalle tristi vicende del sisma. È purtroppo la legge cinica e bara dell'informazione. Però in effetti in questa settimana l'Aquila non è mai stata in apertura su nessun giornale e neanche nei nostri GR. Ciò non toglie che ci fosse molta attesa per la visita di Benedetto XVI che giunge martedì proprio nelle zone colpite dal sisma. La cronaca dell'inviato Vincenzo Miglietta, firmata mercoledì mattina. L'omaggio ai tanti morti di Onna, la visita alla Basilica Trecentesca di Colle Maggio, la commozione davanti alla casa dello studente, il saluto finale nella caserma della Guardia di Finanza di Coppito. Una mattinata intensa, quella di ieri per il Santo Padre nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile, il tutto accompagnato da pioggia e vento che hanno impedito al Papa di arrivare come previsto nel capoluogo abruzzese in elicottero. Questa terra deve risorgere, ha detto Benedetto XVI parlando agli sfollati, ai sopravvissuti che il Papa ha voluto idealmente abbracciare uno ad uno. La Chiesa tutta è qui con me, accanto alle vostre sofferenze, partecipe del vostro dolore per la perdita di familiari ed amici. Il pontefice ha sottolineato più volte l'immenso lavoro fatto dalla macchina dei soccorsi, la grande solidarietà dimostrata da tante persone. Il Papa ha invitato quindi gli abruzzesi a guardare al futuro e alla ricostruzione. Il Papa è qui oggi tra di voi per dirvi anche una parola di conforto circa i vostri morti. Essi sono vivi in Dio e attendono da voi una testimonianza di coraggio e di speranza. Attendono di vedere rinascere questa loro terra che deve tornare ad adornarsi di case, di chiese, belle e solide. Un richiamo infine dal Papa affinché la comunità civile faccia un serio esame di coscienza per quanto accaduto, perché, ha spiegato Benedetto XVI, il livello delle responsabilità mai venga meno. Per la cronaca, in questi giorni sono invece stati compilati gli elenchi delle prime case agibili all'Aquila, siamo sull'ordine di diverse centinaia, e noi intanto, per non abbassare del tutto la guardia, la saracinesca, dell'attenzione sul terremoto e sui terremotati, sentiamo il punto che dall'Aquila fa mercoledì il corrispondente Marcello Ianni, soprattutto sul versante giudiziario. Il procuratore capo della Repubblica dell'Aquila, Alfredo Rossini, che sta indagando sui crolli del terremoto, non esclude la possibilità che tra le macerie ci possano essere ancora corpi. Purtroppo è tutto possibile, ha detto il magistrato. Succederà sicuramente, chissà tra quanto tempo e per quanto tempo, che scoperchiando delle situazioni si troveranno salme di persone che da anni si trovano sottoterra. Purtroppo i soccorritori fanno il possibile, ma l'impossibile solo Dio può farlo. Parlando poi della nuova indagine sulla presenza e lo smaltimento dell'abbianto nelle macerie del terremoto, Rossini ha detto che organizzazioni dalle manine nere potrebbero avere interesse per assicurarsi, lo fanno sempre, l'affare sui rifiuti speciali e l'altro business per l'eliminazione dell'amianto, che a sua volta ha altre procedure costose. Infine il tecnico Giampaolo Giuliani, che aveva previsto il terremoto in Abruzzo, ha riferito all'onorevole Antonio Di Pietro, che ieri era andato a trovarlo, di aver ricevuto delle minacce non anonime. Giuliani ha annunciato una conferenza stampa nazionale per il 2 o 3 maggio prossimi, durante la quale chiarirà tutti gli aspetti della ricerca che lui ha ancora in atto relativa alla previsione dei terremoti. Mercoledì. Ed ora apriamo una ricca pagina di sport, non soltanto perché toccheremo diverse discipline, ma soprattutto perché il tenore delle notizie sportive è diverso e purtroppo più d'una deborda nel penale e nel campo giudiziario. Ma diamo la precedenza al calcio giocato e alla squadra campione d'Europa in carica e che forse resterà tale, cioè il Manchester United, perché martedì si gioca la prima semifinale di Champions tra Barcellona e Chelsea, che finisce 0-0, e invece mercoledì sera il Manchester segna l'unico gol di questo turno d'andata delle semifinali di Champions. Ci racconta tutto Giovanni Capuano. Vince il Manchester, ma non è un successo che valga ai Red Devils più di un minimo vantaggio in vista della gara di ritorno settimana prossima a Londra. L'1-0 è firmato da Oshie, il meno atteso dei protagonisti, destro in mischia sul secondo palo a finalizzare un cross di Carrick al minuto numero 17. Prima e dopo, almeno per la frazione iniziale, dominio della squadra di Ferguson, schierata con Tevez, Rooney e Ronaldo davanti. Arsenal in netta difficoltà, ma capace di resistere e nella ripresa di riequilibrare il match, anche se proprio nel secondo tempo Cristiano Ronaldo con il destro colpisce la traversa e sfiora quel 2-0 che sarebbe suonato come una sentenza definitiva. Invece il Manchester si deve accontentare del vantaggio minimo. Nel finale rischia anche di subire la beffa, chiude imbattuto per la 24esima volta consecutiva in Europa e martedì prossimo dovrà cercare di controllare la freschezza dei giovani di Wenger, ma il progetto di bissare il successo in Champions da ieri sera è più concreto. L'Italia è fuori da tempo ormai dalle coppe europee e si deve concentrare e consolare con il campionato di Serie A. Domenica scorsa non mancano i colpi di scena, qualcuno già immagina la corsa a scudetto riaperto con una sfida tra Milan ed Inter sul filo di lana. Sentiamo il commento e soprattutto cosa ne pensa Carlo Genta. Al coro non ci uniamo. Da oggi e per tutta la settimana almeno vi parleranno di campionato riaperto, perché a tutti fa gioco così. In realtà l'Inter, che ha perso ieri sera a Napoli la sua terza partita su 33, ha ancora 7 punti di vantaggio e lo scudetto in pugno. Il resto appartiene alla sfera dell'imponderabile e dell'inspiegabile, come ogni suicidio sportivo. Ieri il Napoli non poteva perdere, l'Inter ha avuto il torto di non provare a vincere. Partita inesistente fino al destro di Zalaieta, che l'ha chiusa all'improvviso. Adesso dietro c'è il Milan che scoppia di salute. Kakà prende per il naso il Palermo per un'ora e mezza, prende un sacco di calci, perché l'unica cosa che gli avversari riescono a prendere sono le sue caviglie. Prende anche un mare di pioggia e speriamo che non gli venga il raffreddore, dato che questo giocatore, quando è così, è uno dei pochi monumenti del campionato italiano. La Juventus finisce la benzina, emotiva prima che fisica. Verrebbe da dire che non ne ha più tanta voglia dopo una stagione di sogni immotivati. In coda vincono tutte, giornate inutile. Ed ora veniamo alle brutte notizie nell'ambito sportivo. Apriamo questo triste capitolo, nello specifico ci concentriamo sul ciclismo, lo sport direi che più di tutti è finito sulla colonna infame del doping. Tutto ormai è poco credibile in questo sport, che pure annovera tantissimi appassionati anche e soprattutto nel nostro paese. Questa volta la notizia che arriva è agghiacciante, perché riguarda Davide Rebellin, uno degli ultimi campioni rimasti, uno dei più amati, argento a Pechino 2008 e risultato positivo proprio ai controlli in Cina durante le Olimpiadi. Direi un'onta per tutto lo sport italiano, non soltanto per il ciclismo, proprio perché si trattava di giochi olimpici. Tra l'altro in queste ore gira anche un video altrettanto agghiacciante che inchioda Rebellin mentre compra delle sostanze dopanti già nel lontano 2001. Sentite allora l'editoriale, giustamente arrabbiato, arrabbiatissimo, di Dario Ciccarelli, mercoledì. Purtroppo bisogna smetterla anche di stupirsi, lo abbiamo fatto prima con Basso, poi con Ricò e Piepoli, e oggi ci caschiamo ancora con Davide Rebellin, detto il chierichetto, perché da piccolo serviva la messa, e a quell'aria da santarellino che non fa mai peccato, e da 18 anni timbra ogni giorno il cartellino della fatica. No, anche Rebellin non è un santo, facciamocene una ragione, e non solo perché è stato trovato positivo in un controllo sui campioni di Pechino, ma anche perché nel 2001 era già stato toccato dal filone padovano dell'inchiesta sul blitz al Giro d'Italia e se la sfangò nonostante un filmato che lo ritraeva mentre riceveva e assumeva una fiala proibita solo perché il giudice, precorrendo i tempi, considerò non ammissibili le intercettazioni. Purtroppo bisogna dirlo con chiarezza, c'è tutta una generazione di pseudofenomeni, figli dell'epo e poi della cera, questa nuova sostanza che serve per curare l'anemia renale, che fanno della frode una pratica abituale. E il motivo è semplice, perché guadagnano tanto. Ingaggi da mezzo milione di euro all'anno, più vari ed eventuali, che valgono il rischio di una squalifica. Alla fine i conti tornano, Basso è tornato in gruppo, Ricò tornerà l'anno prossimo e qualcuno gli darà il suo bel ingaggio che un laureato, dopo anni di precariato, guadagna in 10 anni. Ecco perché, finti santi del pedale, non vi crediamo più. Come diceva Ciputi, forse è meglio che andate a lavorare, ma sul serio. E sempre per restare in acque torbide all'interno del mondo sportivo, anche nel basket tira davvero una brutta aria, come ci racconta da Reggio Calabria Filippo Veltri. Si concretizzano le prime clamorose conseguenze dell'inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria su un presunto pilotaggio di alcune partite di basket e su presunti favoritismi nei confronti di arbitri compiacenti promossi in categorie superiori a discapito di altri che non si sarebbero prestati agli illeciti. Il GIP di Reggio Calabria, su richiesta della Procura, ha infatti emesso misure interdittive nei confronti degli ex vertici del Comitato Italiano Arbitri. Gli arbitri di commissari indagati, residenti in varie regioni, appartengono alle categorie di A dilettanti maschile e poi anche a uno femminile, B maschile e via di questo passo. L'inchiesta è partita da Reggio Calabria perché proprio nella città dello Stretto sono stati commessi i primi fatti di reato nel corso di una partita svoltasi nel settembre del 2007. La Procura di Reggio sta inoltre svolgendo indagini anche sui presidenti di alcune società che avrebbero chiesto ed ottenuto l'utilizzo di arbitri compiacenti nelle partite in cui erano impegnate le loro squadre. Proprio stamattina nella Procura di Reggio Calabria è arrivato il presidente della Federbasket, Dino Meneghin, per incontrare il PM Maria Luisa Miranda, titolare dell'inchiesta, un incontro che era già stato programmato nei giorni scorsi dopo che si era appreso dell'avvio dell'inchiesta. Chiudiamo con i motori perché domenica si corre in Formula 1 in Bahrain, c'è la terza vittoria di Button sulla Brown, mentre arrivano i primi punti finalmente sospirati della Ferrari dopo 3 gare a secco, anche se siamo ancora nell'ordine delle briciole. Poi sempre domenica si corre anche nel moto mondiale, la cronaca è firmata da Patrizio Cantù. Quando meno te l'aspetti, ecco che il compagno di squadra ti passa e va a vincere, è quello che ha pensato Valentino Rossi quando ha visto Jorge Lorenzo infilando in un curvone in discesa nel circuito di Motegi durante il Gran Premio del Giappone, che ha visto un dominio Yamaha con Lorenzo primo e Rossi secondo davanti a un Renato Dani Pedrosa che ha salvato l'onore della Honda, padrona di casa e del tracciato. La prevista battaglia tra Rossi e Stoner si è vista poco, con l'australiano della Ducati partito davanti ma che ha primo giro è transitato sesto ed ha perso posizioni fino a metà gara per poi risalire fino al quarto posto dopo aver battagliato con Dovizioso. Rossi per problemi alle gomme con un assetto non proprio azzeccato ha dovuto lasciare passare Lorenzo a pochi giri dal termine, non senza averlo prima battagliato fino all'ultimo con continui sorpassi. Ottima gara di Melandri, sesto finalmente con la Kawasaki che ha preceduto Capirossi settimo ed il bravo Calio ottavo con la Ducati privata. Il tempo incerto aveva fatto temere il peggio fino alla fine del warm up ma poi si è finalmente aperto giusto al tempo per la partenza della classe 125 che ha rivisto bissare il successo dell'abruzzese Andrea Iannone, già vincitore in Qatar dopo solo 4 giri. Questa volta ha trionfato da campione, precedendo Simon ed Espargaró e balzando al comando della classifica mondiale. Non ce l'ha fatta Simon Cheri nella classe 250 che mentre era in testa ha pizzicato la gomma anteriore e ha dovuto rientrare in box per la sostituzione. Via libera quindi per Bautista che ha battuto solo negli ultimi giri il giapponese Aoyama e Mattia Pasini. MotoGP senza respiro, giusto il tempo di rifare i bagagli e settimana prossima si replica in Spagna a Jerez de la Frontera. Parliamo ancora un attimo di Formula 1 perché mercoledì arriva la sentenza sul caso McLaren in Australia. Ci spiega tutti i dettagli Dario Ricci. Punita sì, ma con la condizionale. Insomma, poteva andar peggio alla McLaren. Sul banco degli imputati a Parigi per le bugie dette da Hamilton dopo il GP d'Australia, allo scopo di provocare la penalizzazione di Jarno Trulli per un sorpasso ai suoi danni in regime di safety car e così salire sul podio al posto proprio dell'italiano. Il campione del mondo disse allora ai commissari di gara di non aver rallentato apposta per far cadere Trulli nel sorpasso trappola, venendo poi però smentito dalle registrazioni delle conversazioni con il muretto dei box e dalla telemetria. E allora per la scuderia inglese ecco una squalifica per 3 Gran Premi, ma che diventerà effettiva solo se emergeranno nuove prove a carico del team o se nei prossimi 12 mesi la McLaren violasse ancora il codice sportivo. Per chiudere con lo sport, ricordo che la Federazione Internazionale dell'Auto giovedì ha imposto un tetto di spesa dal 2010 di 40 milioni di sterline, cioè 44 milioni di euro circa, per scuderia, un altro duro colpo alla Ferrari, mentre per il calcio, sempre giovedì, viene sancito il divorzio tra Serie A e Serie B, di fatto si va a copiare il modello inglese e l'ex vice direttore generale di Confindustria Maurizio Beretta è stato incaricato di costituire la nuova Lega. L'ottavo giorno. Giovedì. Ormai è quasi una settimana che siamo qui a fare i conti con la febbre suina. Il caso, ormai lo sapete benissimo, esplode nel weekend scorso in Messico, ma fa rapidamente il giro del mondo anche dal punto di vista mediatico. Come ormai capita frequentemente in casi del genere, il confine tra allarmismo e corretta informazione è molto sottile, si corrono dei rischi anche di fare proprio cattiva informazione. In generale direi che invece il governo italiano e le strutture sanitarie competenti nel nostro paese scelgono la linea della prudenza, prudenza comunque vigile, nel senso che comunque non si vuole dare il senso di panico o addirittura parlare di pandemia. Però è anche vero che i contagi si estendono, ci sono anche purtroppo delle vittime. E allora, visto che la situazione è in costante divenire anche nel momento in cui vi stiamo parlando, sentiamo come Radio 24 fotografa la situazione giovedì mattina. L'ultimo bilancio dell'OMS parla di 148 casi accertati nel mondo, ma nella notte altri 2 si sono aggiunti alla lista, uno in Svizzera e uno in Perù. In Messico, dove si è scatenato il virus, le vittime sono salite a 8 e ieri prima vittima accertata negli Stati Uniti, un bimbo messicano di neanche 2 anni. Oggi si riuniscono in Lussemburgo i ministri della salute dell'Unione Europea per decidere i provvedimenti contro l'epidemia. In Europa sono almeno 13 finora i casi accertati, in Austria, Spagna, Germania, Regno Unito e l'ultimo, quello appena citato, in Svizzera. Nessuno in Italia. Il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Margaret Chan, ha esortato tutti i paesi ad attivare i piani di preparazione alla pandemia e ha chiesto alle ditte farmaceutiche di aumentare la produzione di antivirali. Per il vaccino, invece, come confermato dal Ministero della Salute americano, bisognerà attendere fino a settembre. Una delle cose che mi hanno più colpito, ma direi hanno colpito tantissime persone, è che in un primo momento le vittime sembravano in Messico addirittura 150. Poi le stime si sono drasticamente abbassate. Già martedì il Messico, ma anche l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, limitava il bilancio dei morti a meno di 10. La cosa è decisamente molto strana. Abbiamo chiesto un parere al virologo Fabrizio Pregliasco. Ecco la sua opinione in materia. Sono valutazioni diverse. I numeri, a mio avviso, hanno entrambi la stessa validità, ma vanno interpretati nel loro senso. Quelli 7 sono quelli confermati in laboratorio, però la conferma di laboratorio in ogni situazione, anche nell'influenza normale, si può fare solo in una minoranza dei casi che si evidenziano in una situazione anche normale e tanto peggio in una condizione di emergenza come quella che è e quella che era del Messico. Quindi la dimensione del fenomeno presumibilmente possiamo dire che sia intermedia fra questi 2 valori e ovviamente verrà affinata via via che le possibilità e le indagini epidemiologiche potranno essere realizzate. Perché non è sempre possibile effettuare questa verifica in laboratorio? È un problema medico o pratico, insomma? Un problema di entrambe le cose. Un problema pratico perché il virus è presente per poco tempo nel soggetto, bisogna fare un prelievo immediato, bisogna avere una velocità nel portare il campione nei laboratori, ci vogliono laboratori sofisticati che possono fare magari un primis a un livello territoriale una screening di base, cioè una verifica della positività del campione, e poi sono necessari laboratori di secondo livello che possono avere la capacità di, come noi diciamo, sequenziare il genoma, cioè di fare un po' la carta d'identità, l'impronta digitale di questo virus. Intanto cominciano a girare dei video piuttosto inquietanti su Città del Messico, che appare davvero come una città spettrale, con gente che non gira per strada, oppure che quando gira ha le mascherine alla bocca. Intanto però giovedì le autorità messicane hanno annunciato che il numero dei ricoveri è stato dimezzato, però questo in qualche modo contrasta invece con l'atteggiamento dell'OMS, che per esempio mercoledì aveva alzato da 4 a 5 il livello di guardia su una scala che arriva a 6. Giovedì poi, mentre Berlusconi mangia la mortadella alla convention della Coldiretti un po' per esorcizzare la paura della febbre suina in Italia, spuntano invece altri casi un po' il giro per il mondo, ce n'è anche uno alla Banca Mondiale a Washington, ma soprattutto giovedì è il giorno del vertice straordinario dell'Unione Europea sulla febbre suina. Una piccola misura che può dare grandi risultati, così il sottosegretario alla salute Ferruccio Fazio ha definito l'invito precauzionale a rimanere per 7 giorni a casa a tutti i viaggiatori italiani di ritorno dal Messico. Questa è una limitazione abbastanza accettabile e che potrebbe limitare in maniera veramente significativa quella che è possibilità di contagio. Parlando a Lussemburgo, a margine del Consiglio dei Ministri Europei della Salute, Fazio ha ribadito che il nuovo virus umano AH1N1, come ribattezzato ieri dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, è stato rilevato in 23 casi in 7 paesi europei, ma non in Italia. Anche se ieri in Messico vi è stato un caso sospetto di una bambina italiana, poi però dimesse. Tuttavia, per motivi precauzionali, Fazio ha sollecitato le persone che rientrano dal Messico a richiedere il certificato al medico per rimanere a casa una settimana. Fazio ha anche annunciato l'immediato avvio della registrazione dei dati dei passeggeri in arrivo dal Messico, come già fatto dall'Austria. Venerdì. E siamo arrivati alla giornata di ieri, 1 maggio, festa del lavoro e dei lavoratori. Ecco alcuni modi, molto diversi tra loro ma altrettanto significativi, in cui è stato celebrato il 1 maggio. Solidarietà ma anche attenzione alla sicurezza sui luoghi di lavoro, questi temi al centro della manifestazione qui all'Aquila, alla caserma della Guardia di Finanza dei 3 leader sindacali, CGIL e CISL e UIL hanno chiesto con forza che il territorio possa rinascere, che vengano ricostruite le case, le imprese, le scuole, l'università, è fondamentale che i lavoratori ritornino ai loro posti, che sia ricucito il tessuto produttivo dell'Aquila e della sua provincia, no però alla ricostruzione selvaggia, ha ammonito il segretario della CGIL Epifani, no al venir meno della sicurezza sui cantieri. Bisogna mettere in sicurezza antisismica le case e gli edifici pubblici e bisogna mettere in sicurezza i cantieri, non dobbiamo piangere più morti. Il terremoto dunque come punto di partenza per tornare a rilanciare l'economia della zona è già successo in passato, ha ricordato il segretario della UIL Angeletti. Non è una utopia, nel Friuli la crescita dell'economia, quindi delle imprese, del lavoro è stata di 3 volte superiore al resto dell'Italia dopo il terremoto. Basta la buona volontà, il saper fare e nell'utilizzare le risorse. È stato un 1 maggio segnato dagli scontri in tutta Europa, scontri frutto delle proteste contro la gestione della crisi economica da parte dei governi. A Istanbul, la principale metropoli turca, la polizia ha dovuto usare i lacrimogeni per disperdere i manifestanti che hanno attaccato banche e negozi. Teatro degli scontri è la centrale piazza Taksim, dove i contestatori hanno sfidato il tradizionale diniego a manifestare da parte delle autorità turche. L'agenzia di stampa Anadolu parla di 36 feriti tra la polizia, ma ci sarebbero pure numerosi arresti. Incidenti anche a Berlino, dove i manifestanti hanno incendiato auto e si sono anche in questo caso scontrati con la polizia a colpi di pietre e bottiglie. Gli incidenti sono iniziati quando 200 contestatori hanno cominciato a intonare slogan anticapitalisti. 29 i poliziotti feriti, 12 gli arrestati. Centinaia di migliaia di manifestanti, 1,5 milioni per i sindacati sono invece scesi in strada nelle principali città francesi. Gli 8 sindacati transalpini hanno invitato i lavoratori alla mobilitazione per protestare contro quella che definiscono l'inefficace azione governativa a difesa di lavoro e salari. Proteste violente si sono verificate infine anche ad Atene, dove a finire nel mirino sono state le banche. Bisogna dire che è stata una settimana rara per concentrazione di notizie, c'è stato davvero di tutto, c'è stato davvero tanto in questi 7 giorni, quindi la nostra scelta di selezionare le 7 notizie principali è stata piuttosto difficile. Per esempio abbiamo lasciato fuori i danni e i feriti che ha fatto il maltempo al nord, oppure il fatto di cronaca gravissimo in Olanda, dove un'auto impazzita giovedì è piombata sul corteo reale e ha fatto 4 morti. Noi invece preferiamo fermarci un attimo e riflettere su quello che l'Istat ci ha detto lunedì. L'Istat ha fatto il conto di quanti siamo ormai in Italia. Paolo Piacenza. È fatta. L'Istat ha ufficialmente certificato che dal novembre 2008 la popolazione residente in Italia ha superato la fatidica quota 60 milioni. Siamo, per l'esattezza, 60 milioni 17.677, a 50 anni dal superamento di un'altra quota simbolo, quella dei 50 milioni, oltrepassata nel 1959. Ma se fino al 1979 a spingere lo sviluppo demografico sono state le nascite, dagli anni 80 in poi lo stop della natalità ha bloccato la crescita, che è ripresa grazie all'immigrazione degli ultimi anni. Oggi gli immigrati ufficialmente residenti in Italia sono stimati 4 milioni e mezzo, di cui quasi 500.000 hanno ottenuto la cittadinanza. E anche in futuro saranno quasi certamente loro i protagonisti della demografia del bel paese, come spiega Angela Silvestrini, ricercatrice dell'Istituto Italiano di Statistica. Abbiamo fatto vari scenari possibili. Nello scenario più alto avremo circa 12 milioni di stranieri nel 2051 su una popolazione di 67 milioni di abitanti. Abbiamo finito anche per oggi con l'ottavo giorno, ottavogiorno@radio24.it per chi ci vuole scrivere. Io ringrazio in regia Valerio Rocchetti e vi do appuntamento a sabato prossimo alle 10 oppure in replica alle 23.